passata la Pasqua solo da un giorno, ma ormai siamo nel tempo pasquale. E io vi invito fin da oggi ad avere una grande attenzione alle letture che la Chiesa ci proporrà, perché è un tempo interessantissimo. È come la Chiesa che deve badare lei stessa, non ha più Gesù che interveniva contro i farisei a difendere gli apostoli, non ha più Gesù che dava gli insegnamenti direttamente. È un po' come, per fare un esempio, ciascuno di noi quando ha fatto scuola guida aveva l'istruttore accanto, ha imparato e a un certo punto deve guidare da solo. Sì, lo sa fare, però hai voglia. Ormai l'automobile è in mano a lui. Non solo deve guidare, ma deve imparare a discernere i segnali stradali, i pericoli, le cose improvvise che incontrerà. Così gli apostoli. Ed è interessantissimo vedere come hanno imparato a guidare la Chiesa, perché questo ci può insegnare ancora oggi come fare. Io oggi vorrei sottolinearvi due o tre aspetti di questo. Primo, le donne. Le donne sono state nella Chiesa e lo sono ancora le più forti. Le donne sono state loro che si sono mosse per prime e sono andate al sepolcro. Al mattino presto le donne si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Seconda cosa, gli uomini, gli apostoli, fanno la figura. Vedete cosa dice il Vangelo? Raccontarono queste cose agli apostoli, ma quelle parole parvero a loro un vaneggiamento, chiacchiere di donna. E tante volte noi maschi facciamo questa figura, eh? Abbiamo il coraggio di dire anche le battute sulle donne. I preti poi, circola una battuta tra i preti: sapete perché Gesù è apparso per primo alle donne? Per essere sicuro che la notizia si diffondesse. Ecco, no, i preti sono capaci anche di fare battute di questo tipo. E poi però le donne sono le prime in prima linea, ieri e oggi nella Chiesa. Ringraziamo il Signore d'aver dato al mondo femminile, San Giovanni Paolo II lo chiamerebbe il genio femminile, di avere dato questa sensibilità religiosa. Indubbiamente le donne hanno un'altra marcia, lo vediamo anche nelle nostre famiglie. Sono le donne che trasmettono la fede ai figli e ai nipoti. Gli uomini, forse, qualche volta, ci sono degli esempi bellissimi, il papà di Santa Teresa di Gesù Bambino, per esempio, ma normalmente l'uomo è in seconda fila e in più critica. Teniamo presente questo, amici. Ancora oggi nella Chiesa, io sento proprio come sacerdoti di ringraziare il mondo femminile per tutto quello che fa nella Chiesa. E infine, ultimo aspetto, dopo le donne, dopo gli apostoli che fanno una figura meschina, si riscatta Pietro. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro, e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Io vi direi: tenetelo d'occhio Pietro, perché in tutto il periodo pasquale, post pasquale, emergerà la figura di Pietro. Ve lo dico fin d'ora perché stiate attenti alla sua personalità, sarà sempre quello in prima fila. E per questo Gesù ha dato a lui: tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa. E il Papa che cos'è se non il successore di Pietro? Il ruolo che il Papa ha ancora oggi nella Chiesa certamente ha anche un ruolo di tipo anche storico, storicamente il papato si è sviluppato in un certo modo, però ha la radice nel Vangelo. Sarà interessantissimo vedere la figura di Pietro. Quest'uomo per tanti aspetti spigoloso, tanto da prendersi, vai via Satana, va de retro Satana, tu non la pensi alla maniera di Dio ma degli uomini. Quest'uomo che lo tradirà per 3 volte, però quest'uomo generoso. E allora concludo dicendo, cari amici, non importa, sì che importa, però non è importante tanto essere santi subito. Ci si può crescere, è importante avere lo slancio. E Pietro era tra tutti gli apostoli l'apostolo più generoso, l'apostolo più slanciato. Ma tenetelo d'occhio anche nei Vangeli che sentiremo del tempo pasquale e anche nel racconto degli Atti degli Apostoli, che sarà il grande libro che ci accompagnerà, gli Atti, cioè le azioni degli Apostoli.